Mix 24, i gialli della storia. Evita Duarte, la compagna fedele di Juan Perón, è stata la prima vera first lady dell'America del Sud, ma anche la passionaria dei descamisados, dei poveri e delle donne. Per tutti è Evita, un'eroina venuta dal popolo che, dopo aver raggiunto le vette del potere, torna ad abbracciare la sua gente. Una figura leggendaria che racconteremo oggi a Mix 24 attraverso le testimonianze di quelli che l'hanno conosciuta, ammirata e criticata. E lo faremo anche attraverso le voci della nipote Cristina Alvarez Rodriguez e dello scrittore Germán García, il sociologo Juan José Sebrali e lo storico Fermín Chávez. A Buenos Aires c'è ancora un piccolo museo che ricorda il luogo dove Evita è stata imbalsamata dopo la sua morte, nel luglio del 52. È la sede del sindacato peronista. Lorenzo, il guardiano del museo, ci racconta la prima volta che ha visto da vicino Evita. Erano le 16:30 quando sono comparsi Perón ed Evita. E io rimasi lì incantato e li guardavo. Non ho applaudito né urlato, sono rimasto ipnotizzato. Vedere Evita lì. Evita! E Perón! Mi sono venute le lacrime. Evita nasce il 7 maggio 1919 a Los Toldos, un paesello della Pampa argentina. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Ultima di cinque fratelli, Eva non verrà mai riconosciuta dal padre, un signorotto di provincia che ha un'altra famiglia. Infatti, quando muore, a Eva viene perfino impedito di partecipare ai funerali. Piccolissima, Eva si trasferisce a Junín, a 300 chilometri da Buenos Aires. La sua sarà un'infanzia difficile, segnata dalla povertà e dall'onta della figlia illegittima. In realtà, nei paesi della provincia di Buenos Aires, nella campagna argentina, la questione della doppia famiglia, la famiglia diciamo ufficiale e la seconda famiglia, capitava con una certa frequenza, anche se a quel tempo era ancora una cosa un po' difficile da vivere. Tra l'altro è molto coerente con tutta la mitologia della nascita dell'eroe. L'eroe non si sa mai da dove viene, è stato allevato da altri. Questo passato oscuro rende possibile l'epopea. L'epopea, vale a dire affermarsi nonostante tutto, nonostante l'origine, ad esempio. Il padre muore quando Evita aveva 7 anni. E allora inizia una lotta per la sopravvivenza. Erano anni molto duri in Argentina, e ancora di più per una mamma sola con 5 figli. A 15 anni Eva va alla stazione di Junín, sale su un treno e scappa. La provincia le sta stretta. Lei sogna Buenos Aires, il benessere, un futuro da attrice. Ma Eva è solo un'adolescente che viene dalla campagna. Non ha una famiglia alle spalle, né amici che la possano proteggere o consigliare. Non sorprende dunque che su questi primi anni a Buenos Aires circoleranno pettegolezzi e maldicenze. Quasi sempre di fronte a donne celebri si vanno a cercare queste questioni che si riferiscono all'origine, alla sessualità. Se guardiamo la vita pubblica degli uomini, è molto più difficile che ci si domandi se quando aveva 17 anni ha avuto una fidanzata, se ha vissuto in un modo o in un altro. Nessuno se ne occupa. Cosa mi affascinava di Evita? Questo personaggio da leggenda, uscita dai bassi fondi, attrice mancata, per i canoni dell'epoca quasi una prostituta. Ma oggigiorno qualsiasi studentessa universitaria ha avuto più amanti di Evita. E poi in realtà neanche quello, che era la parte più trasgressiva, quella che a gente come me piaceva, per esempio. Questo fa parte dei miti che si sono costruiti intorno ad una persona reale che fu Eva Duarte in Perón, soprattutto intorno alla sessualità di Evita. Esistono alcuni romanzi storici che si riferiscono all'esercizio della prostituzione per farsi strada come artista. La verità è che lei non ha avuto bisogno di fare questo, perché riuscì a superare un provino alla radio che le permise di iniziare la carriera artistica. Vinse un concorso, riuscì a trovare un posto fisso e lavorò in radio e a teatro. Quindi Eva Duarte è una ragazza forte e volitiva, che sa sorridere alla vita anche se non ha incontrato grandi occasioni, solo qualche piccolo ruolo alla radio e molte relazioni sfortunate. Poi nel gennaio del 1944 un evento tragico si trasforma in una grande opportunità, la svolta che permette di salire imprevedibilmente la ribalta della storia è il disastroso terremoto di San Juan. Perón, all'epoca sottosegretario al Ministero del Lavoro, decide di fare un festival per raccogliere i soldi per la ricostruzione di San Juan. Per questo motivo, tra gli artisti che lo vanno ad incontrare per organizzare la colletta, c'è anche Evita. Il rapporto tra Evita e mio padre era molto sincero, molto schietto, molto coinvolgente. Evita diceva sempre a quelli che le stavano intorno: sapete perché io voglio bene a Mercante? Perché grazie a lui ho conosciuto Perón. Perché il giorno in cui siamo andati a festeggiare per la colletta che avevamo fatto noi attori a favore dei terremotati di San Juan, io non lo conoscevo Perón. Mercante mi prese per mano, mi portò alla sedia e mi fece sedere. Si sieda qui e non si muova per nessun motivo. Ma qui si siederà il colonnello Perón. Sì, si siederà il colonnello Perón, ma lei rimanga qui. Perón si è reso conto subito delle sue qualità. Scoprì il suo temperamento, i suoi ideali e la sua voglia di fare delle cose. Dopo il terremoto di San Juan, Evita e Perón cominciano a mostrarsi insieme in pubblico. Lui però è già una celebrità, un membro autorevole della giunta militare, un uomo molto ambito con una fama di seduttore. Subito dal passato riemergono i vecchi pettegolezzi sul conto di Evita. Evita diventa dunque l'amante di uno degli uomini più popolari dell'Argentina degli anni 40. Perón è il vicepresidente della Repubblica, ministro della guerra, ministro del lavoro, ma le sue teorie e la sua pratica sociale non piace affatto ai conservatori e il 12 ottobre del 45 viene arrestato, ma il popolo è con lui. Sta per nascere il nuovo movimento politico, il peronismo, ancora Cristina Alvarez Rodriguez, la nipote di Evita, e lo storico Ugo Gambini. La mattina del 17 ottobre 1945 succede l'imprevisto. I sindacati, che hanno indetto uno sciopero generale per la liberazione di Perón, si trovano in piazza migliaia di manifestanti che spontaneamente convergono verso il palazzo del governo, la Casa Rosada. A mezzogiorno la piazza è ormai colma di decine di migliaia di persone che, contrariamente all'etichetta dell'epoca, a causa del gran caldo si sono tolte la giacca e sono rimaste in maniche di camicia. Diventeranno i descamisados, quel popolo che aveva visto nel colonnello Perón il difensore dei suoi diritti negati. I militari che hanno arrestato Perón non sanno più che cosa fare. Ed Evita, che ruolo ha avuto in tutta questa storia? Evita, il 17 ottobre, ebbe una missione molto importante. Quella di organizzare le proteste insieme a tutti gli amici e a tutte le persone che conosceva perché si arrivasse alla liberazione di Perón. I dimostranti restano in piazza fino a tardanotte, quando finalmente Perón viene rilasciato e spinto dai militari ad affacciarsi al balcone della Casa Rosada per calmare la folla. Ormai è chiaro che Perón è pronto a guidare il paese. Con il racconto della storia di Evita riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la storia di Evita Duarte in Perón. Dopo la scarcerazione del colonnello è evidente che sarà lui a prendere in mano il paese con un enorme consenso popolare. Ed Evita è al suo fianco. Ancora la nipote Cristina e poi Jean-José Sebrali e Ugo Gambini. Evita era molto innamorata di Perón. Perón allora era l'uomo del momento. Aveva 50 anni, Evita 24. Era un'attrice riconosciuta in quel periodo e Perón era il colonnello del popolo. 22 ottobre 1945. Eva Duarte e Juan Perón, entrambi figli illegittimi ed entrambi nati in un paesino di provincia, si uniscono in matrimonio con una cerimonia civile. In soli 4 mesi diventeranno la coppia più celebre della storia del Novecento. E rapidamente trovò il suo ruolo. Una specie di passionaria, con un'oratoria focosa, direi incendiaria, che era quello che davvero le si confaceva. Cominciò a raccogliersi i capelli con lo chignon, a mettersi il tailleur e si trasformò completamente con l'aiuto di alcune persone fidate e, indubbiamente, anche grazie alla sua stessa intuizione. 24 febbraio 1946. Una fila interminabile e rigorosamente di soli uomini si reca alle urne. La campagna elettorale è stata molto combattuta. L'Argentina deve eleggere sia il nuovo Parlamento che il nuovo capo dello Stato. Ma il verdetto delle urne non lascia adito a dubbi. 55% al Partito Laburista di Perón, 45% all'Unione Democratica. Perón è il nuovo presidente della Repubblica Argentina. Io, Juan Perón, giuro su Dio nostro Signore e su questi santi Vangeli di impegnarmi con lealtà e patriottismo nell'incarico di presidente della nazione e osservare. Quando Evita si trova al potere, seduta a fianco di Perón, vuole interpretare uno dei suoi personaggi e la situazione le si presenta molto favorevole per farlo. E lo fa nel suo stile, lo stile dove mescola l'amore e l'odio perché risveglia le due cose. Realmente fu importante per Perón perché gli permetteva di coprire una grossa fetta della scena e soprattutto lo aiutava a scaricarle quelle responsabilità che non gli andava di assumersi. Quando María Eva Duarte de Perón, primera dama della Repubblica Argentina, sbarca all'aeroporto di Madrid, tutti vengono conquistati dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Solo a poco gli europei impareranno a conoscere anche i suoi difetti, il suo essere perennemente in ritardo, ad esempio, ma soprattutto la sua impreparazione politica e diplomatica. Eppure il viaggio di Evita è un autentico trionfo. L'Argentina è una grande potenza economica. Eva arriva in un'Europa ancora disastrata dalla guerra, promettendo navi cariche di prodotti agricoli e aiuti finanziari. Dopo la Spagna è la volta di Roma, prima il Papa e poi De Gasperi, nonostante le proteste di un gruppo di antifascisti che non le perdona le simpatie dimostrate da Perón per il Duce. E poi ancora Francia e Belgio, con un misterioso fuori programma in Svizzera, dove, si dice, abbia scambiato la via di fuga per i criminali nazisti con un lauto compenso finanziario. Ma di questo non c'è alcuna prova. La sua dama di compagnia, ciononostante, descrive Evita terrorizzata dalla possibilità di un attentato, al punto di mettere sempre un armadio per bloccare la porta della sua camera da letto. Al suo rientro Evita è accolta come un'eroina. Perón corre ad abbracciarla, orgoglioso della sua creatura, la piccola attrice venuta dalla provincia che ora si commuove stretta a lui, fiera di aver svolto bene il compito che le è stato assegnato. Però forse non si rende ancora conto che Evita lo sta pian piano scalzando nel cuore degli argentini. Il viaggio in Europa consacra Evita Perón come leader della nazione. Ma la sua ascesa era diventata inarrestabile già qualche tempo prima, quando aveva cominciato a dedicarsi anima e corpo ai più deboli e agli umili. Per tutti diventa la dama della speranza. Ascoltiamo Juan José Sebrali, Germán García e Susanna Rueda, il segretario della CGT, il sindacato peronista e ancora la nipote Cristina. 26 ottobre 1946. Evita inizia a tornare in mezzo a quel popolo da cui era venuta e da cui è fuggita. Quel treno ora la porta nei paesi più sperduti, nelle regioni più dimenticate, laddove i politici argentini non sono mai andati. Torniamo alla sede del sindacato. Vogliamo farci raccontare in cosa consistesse realmente la politica sociale di Eva Perón da uno dei tanti che ne ha beneficiato di persona, il guardiano del museo. Uscii dalla povertà, ho il mio stipendio degno, il mio lavoro degno, sono felice perché fino ad oggi non mi è mai mancato il pane. Perché? Perché ho imparato la dottrina di Evita, avere cura del proprio stipendio, risparmiare, avere cura della propria casa. E poi tutto l'aiuto che mi ha dato la compagna Evita dopo che sono arrivata a Buenos Aires. Già solo i soldi a credito che mi ha dato per costruirmi una casetta, da pagare in 30 anni. Di fatto lei crea la fondazione Vaperon quando si scontra con le signore dell'aristocrazia per toglierle la funzione che avevano loro. Il potere da sempre fa questo. Il potere ha sempre il suo volto umano, come si dice, un po' sadicamente. No, esattamente l'opposto. Quando uno parla di beneficenza, sta parlando da un livello più elevato, perlomeno dal punto di vista del potere economico, nei confronti dell'altra persona. Lei invece aveva un rapporto da uguale a uguale, con il più umile, il più bisognoso, il più emarginato. E questo è il motivo per cui non c'entra niente con la beneficenza. La beneficenza, storicamente in Argentina, è stata fatta dalla classe dirigente, dalle classi alte, che abitualmente davano cose ai poveri. E il concetto era dare quello che avanzava. Invece il concetto di Evita era dare quello che ti fa fatica di dare. C'è un suo film che la ritrae perfettamente, è del 45, La prodiga. La signora che scende dalla sua campagna fino al villaggio per aiutare la gente e gli fa segnare il nome per aiutarli. Guardate un po' se non è una previsione di quello che è successo dopo, La prodiga. Il 9 settembre 1947 il Parlamento nazionale approva il disegno di legge che concede i diritti civici alle donne. Ella considerava... Lei pensava che l'assenza della donna dai luoghi in cui si fanno le scelte politiche che riguardano la famiglia era ciò che successivamente condannava le famiglie e in primo luogo le donne. Perciò la donna doveva avere un ruolo da protagonista. Da questo nasce la lotta. In primo luogo per il voto e successivamente per la partecipazione della donna. Fu creato il Partito Peronista Femminile, indipendente dal Partito Giustizialista. Vale a dire che le donne sceglievano le loro rappresentanti, a prescindere da quello che pensavano gli uomini. Fu un fatto, secondo me, di assoluta avanguardia. Lei ha sempre saputo che grazie a Perón era potuto essere quella che era, in un mondo assolutamente maschilista in cui gli uomini non davano nessuno spazio alle donne. Perón diede questa possibilità a Evita e a tutte le altre. Con la storia di Evita Perón riprendiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inats.it. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la storia di Evita Perón, della sua ascesa nel consenso popolare passato anche attraverso il voto alle donne. E le donne andarono a votare in massa. Ma la posizione di Evita è tutt'altro che rivoluzionaria e progressista. Ancora Germán García, Juan José Sebrali e l'imprenditrice Ketty Safdie. Le donne andarono a votare in massa. Io non so se darle il diritto al voto sarà stato un calcolo politico. Comunque, che noi donne avremmo finalmente ottenuto il voto, non c'era nessun dubbio, perché il mondo stava andando in quella direzione. Non so se devo essere grata a Eva Perón in particolare. Nella seconda tappa del peronismo, quando finiscono i soldi e inizia la crisi economica, nel 1949, cominciano i grandi scioperi, una cosa che si dimentica sempre. Ci sono stati grandi scioperi contro il governo, come lo sciopero dei ferroviari. Ed Evita fa i picchetti contro gli scioperi. Va di notte nelle stazioni dei treni a minacciare e spaventare gli scioperanti che erano asserragliati lì, dicendo che manderà l'esercito. Con Eva Perón conveniva andarci d'accordo, perché altrimenti ti poteva succedere qualsiasi cosa. Ricordo che dentro casa io non potevo parlare con mio padre delle attività che svolgevo nel movimento studentesco davanti ai domestici, perché temevamo di essere denunciati. Ci sono stati compagni arrestati, persino torturati, anche con l'elettricità. E fatti come questi tantissimi. Li picchiavano sui reni con un asciugamano bagnato, una specie di frusta. Sapeva esattamente cosa voleva raggiungere. Perfino lo faceva dire alla stampa. Ma in realtà Tutti erano completamente d'accordo con lei. Io credo che era così perché lei si circondava di gente fedele al movimento peronista. Chi non condivideva le idee non era ben visto e non poteva avvicinarsi molto. Non bisogna dimenticarsi che erano tempi di un certo tipo di dittatura. È vero, non c'era libertà di stampa, o piuttosto c'era una libertà di stampa ristretta. Bisogna anche dire che la stampa era al servizio, se parlassimo il linguaggio di quell'epoca, di interessi stranieri. E la visione che avevano del peronismo era sempre indiscriminatamente critica. La dittatura peronista era una dittatura paternalista, consensuale. Possiamo dire che la gente che non aveva libertà politica non era la gente comune. Erano quelli dell'opposizione, completamente neutralizzata. Un esempio del suo odio e del suo spirito vendicativo l'ho vissuto di persona con un compagno della facoltà. La sua era una famiglia arrivata da pochi anni nel paese. Avevano avuto un grande successo con una fabbrica di caramelle e dolciumi, molto conosciuti e molto buoni. In un'occasione lei chiese al padre del mio amico, Nolo Grossman, che facesse una donazione per la Fondazione Evita. E immagino che si siano rifiutati. Subito Eva Perón fece mandare in fabbrica alcuni ispettori. Naturalmente hanno trovato molte cose terribili come peli di topi e cose del genere, il che significò la chiusura immediata della fabbrica con la perdita del lavoro degli operai e la rovina della famiglia che dovette andare via dal paese, in Israele. Evita dunque non rinnega l'autoritarismo e contribuisce a secondare i metodi violenti del suo leader. Grandi parate, un'accurata propaganda che amplifica e esaspera il successo del regime. Juan Perón diventa un capo sempre più autoritario e Evita non è più solo la compagna del dittatore, adesso la scena è tutta sua, la sua attività sociale comincia occupandosi dei bambini più bisognosi. Ascoltiamo il commento di Fermín Chávez, di Juan José Sebrale, ancora Cristina Alvarez Rodríguez e il calciatore José Sanfilippo. Il capo dello Stato e la sua sposa rispondono con saluti cordiali alle vibranti dimostrazioni di simpatia del pubblico. La signora Perón dà il calcio d'inizio della partita finale di questo campionato senza precedenti. Di questi campionati Evita, credo che siano usciti Maschio, Angelillo, Sivori e io stesso. Anch'io ho avuto l'onore di partecipare al primo campionato infantile Evita. Avevo 9 anni. Il campionato era emozionante. Partecipare alla prima edizione con i giornalisti che seguivano i bambini che giocavano a pallone. Ma una delle cose più importanti era che si doveva presentare il certificato medico per poter partecipare. Allora ti facevano un check-up generale per verificare se eri in condizione di partecipare a una gara sportiva senza rischi per la salute. Ti mettevano a posto i denti, vale a dire, non era solamente giocare, ma c'era anche cura per tutti noi che partecipavamo, perché forse molti di noi non avevano mai fatto un controllo del genere. La città per l'infanzia, costruita dalla Fondazione Maria Eva Duarte Perón, comincia a mettere in pratica la sua nobile finalità. Arriva il primo contingente di bambini poveri che tra poco vedrà la realizzazione di un sogno. Come prima misura, un bagno caldo, salutare e ristoratore. E dopo, un buon taglio di capelli. Prima erano vestiti molto male, con abiti veramente brutti. Lei gli fece togliere quegli stracci, ordinando che gli facessero dei grembiulini così carini. Evita era una donna straordinaria. Come si può non amare Evita con tutto quello che ha fatto per i bisognosi, per gli operai? Poi le colonie per i bambini. Li portava tutti in vacanza, con i loro zainetti, e li portava nei grandi alberghi, dove non erano mai stati e dove neanche io ero mai stato. Oltre al contatto con il mare fresco e increspato, il sole e la gradevole brezza, le spiagge di Mar del Plata offrono il meraviglioso spettacolo della donna argentina, sintesi di grazia e bellezza. Qualcosa che illustra bene la nuova situazione è il fatto che la gente comincia ad andare a Mar del Plata, e persino il personale domestico. Prima era un posto per le famiglie, bene, con i soldi, persone a cui dava fastidio trovare sulla spiaggia della gente comune, i loro domestici, che si godevano il sole di Mar del Plata. Questo sì, ha dato molto fastidio, e come questo tanti altri benefici prodotti dal cambiamento sociale in corso. In Argentina si è sempre discusso se Evita esercitava potere su Perón o Perón su Evita. Tutti gli storici che hanno studiato com'è la questione, tutti siamo assolutamente certi che Perón manovrava Evita. E tra l'altro le fu davvero molto utile, perché Evita si occupava di tutta la parte emotiva del peronismo. Evita fu un sottoprodotto di Perón. Perón invece non aveva bisogno di Evita. E credo che quando lei morì, al di là del dolore che avrà avuto per aver perso la sua donna, si sarà anche sentito molto alleggerito, perché questa donna gli stava scappando di mano. Agosto 1951. Alle 14:30 le strade di Buenos Aires sono già stracolme di persone chiamate a raccolta dalla CGT, il sindacato peronista, per consacrare la formula Perón Evita alle elezioni di novembre. Alle 17, nel più grande viale di tutto il Sud America, l'Avenida 9 de Julio, si affolla 1,5 milioni di persone, che esplode in un'ovazione quando sul palco appare il generale Perón. Subito, però, la folla esprime anche il suo disappunto. Evita dov'è? I sindacalisti non hanno scelta, devono scendere dal palco, andarla a prendere e portarla accanto al marito. Nel tripudio dei suoi sostenitori, Evita prende la parola. Evita ha un compito ingrato. Perón le ha chiesto di rinunciare a candidarsi. Decide perciò di prenderla alla larga e comincia ad osannare il marito. Ma la piazza non accetta i suoi giri di parole. Vuole una risposta ed Eva non può dargliela, almeno per ora. Chiede tempo, 4 giorni. La folla non ne vuole sapere. Evita deve dire sì, ora, davanti a tutti. Alle 21 la tensione è palpabile. Riprende la parola Perón. Tranquilli, dice, sarete voi a decidere, come sempre. Il generale vorrebbe sciogliere la adunata, tutti a casa, e invece la folla e il suo popolo non se ne va. Eva ha capito. Il paese intero è con lei, suo marito invece no. Chiede alla gente di avere pazienza. Compagni, per l'affetto che ci unisce, per favore, non mi costringete a fare quello che io non voglio fare. Ma dalla piazza nessuno sembra disposto a mollare. Alle 23, Eva trova la frase finale. Come ha detto il generale Perón, farò quello che mi chiede il popolo. La folla crede di aver vinto. Evita sarà vicepresidente. Si torna a casa. E invece Evita ha soltanto ripetuto le parole di Perón. Effettivamente ci fu un momento molto teso, perché Evita aveva lavorato duramente con i sindacati che proponevano la sua candidatura. E c'erano settori più conservatori che non volevano questa candidatura, perché pensavano che, dato che Perón era più anziano, se Perón fosse morto, sarebbe rimasta lei in carica a dirigere il paese e le forze armate, e che questo era terribile per la nazione. Sono giorni molto difficili in cui Perón e sua moglie devono prendere una decisione da cui dipenderà l'equilibrio politico dell'Argentina, stretta tra i militari e il volere popolare. Dopo 7 giorni Evita comunica alla nazione con un messaggio radiofonico la sua irrevocabile decisione. Compagni, Compagni, voglio comunicare al popolo argentino la mia decisione irrevocabile e definitiva di rinunciare all'onore con cui i lavoratori e il popolo della mia patria mi hanno riconosciuto nella storica adunata popolare del 22 agosto. Non rinuncio alla lotta o al lavoro, rinuncio agli onori. L'ultimo anno di Evita sarà tutt'altro che un anno di silenzio. Compare in pubblico diverse volte, sempre più smagrita, quasi irriconoscibile, e tuttavia sempre più aggressiva, instancabile, fedele senza tentennamenti all'uomo che pure l'ha eliminata dalla scena politica. Più avanti nel tempo ci siamo rassegnati alla sua malattia e lei continuava a combattere con molta grinta e molto sacrificio. Alle ore 20 e 25 è deceduta la signora Eva Perón, capo spirituale della nazione. Le esequie di Eva Perón durano 15 giorni. Si dice che in quelle settimane di pioggia incessante il cuore dell'Argentina si fermò. Poverina, fu molto sfortunata, si ammalò gravemente e morì a 33 anni. Questa è una cosa che dà pena a chiunque. Ci fu un pianto permanente. Per la gente, io credo fu altrettanto triste che la perdita di un familiare. Personalmente credo che Evita fu più amata di Perón. Per la sua bontà, per la sua voglia di aiutare le donne, i lavoratori. Evita fu come un angelo. Evita fu il massimo. Aveva ben 4 incarichi, lavorava senza sosta. Fino all'ultimo momento della sua agonia, continuava la sua lotta. Eva muore ad appena 33 anni. La morte trasforma la sua vita in leggenda. In pochi anni cresce il suo mito e molti addirittura la vorrebbero santa. Oggi il corpo di Eva Perón riposa in questa tomba, la tomba di famiglia dei Duarte, nel cimitero più borghese di Buenos Aires. Per 3 anni dopo la sua scomparsa, all'apice della dittatura peronista, il paese ha vissuto un lutto ininterrotto. Ci fu una settimana di lutto. Tutte le notti davano il comunicato alle 8:25, l'ora in cui morì Eva Perón. E lo mandarono per molti anni, fino a che venne la rivoluzione libertadora. E da allora non si poteva più nominare Perón. Poi, 3 anni dopo la morte di Evita, il 16 settembre 1955, d'improvviso alcuni aerei della Marina Militare Argentina iniziano a bombardare Buenos Aires facendo strage di civili. Quei militari che hanno tanto odiato Evita ora destituiscono Perón con la forza, in nome della democrazia. A tutti noi ci prese di sorpresa. La gente che usciva dalla banca, i bambini che uscivano dalla scuola. Fu una cosa impressionante. Erano le 5, arrivavano gli aerei, boom, boom, boom, e passavano via. E dal Ministero della Marina ci sparavano addosso e noi eravamo indifesi, non avevamo nulla. Che ci fecero poi con la classe operaia dopo il 55, con i bambini? Che ci fecero con i vecchi? Che ci fecero con gli ospedali in costruzione? Che ci fecero con le lenzuola, i materassi, i letti, solo perché avevano stampato il nome della fondazione Eva Perón? Perché almeno non li ritagliavano, li davano al popolo e agli ospedali. Perché? Per cancellare definitivamente Eva Perón. Il mito di Evita continua a sopravvivere nella memoria di un popolo che la ricorda e la venera. E ancora oggi, a più di 60 anni dalla sua morte, la Madonna degli Umili resta nel cuore e nella memoria degli argentini. Ancora Germán García, lo storico Félix Luna e la nipote Cristina. Sono state fatte molte letture sul perché ci fu questa identificazione di popolo con lei. Però io sono dell'idea che non era tanto importante Eva Perón nel momento in cui era viva. Perciò credo che il fenomeno di Evita, così come si descrive adesso, è molto posteriore al peronismo. Senza dubbio, il peronismo non sarebbe stato lo stesso senza Eva Perón. Lei mise una quota importante di amore e fanatismo di cui hanno bisogno le grandi cause. Fu candidata a tutte le cariche e non volle accettarne nessuna. Era una donna talmente straordinaria e lasciò un'eredità tale che rimarrà nella storia argentina per moltissimi anni. Penso che fosse una donna molto sincera, questo è il merito che le attribuisco. Una donna che davvero mise la sua vita al servizio di ciò che lei considerava la sua missione. Credo che era una donna che aveva molto odio, molta intolleranza, per cui non le nego la sua sincerità personale, però vorrei che niente di simile tornasse di nuovo nel nostro paese. In fondo, nella mia famiglia, nessuno ha mai pensato che Evita sarebbe diventata il personaggio che tutto il mondo ha conosciuto. È stata sempre considerata come la sorellina adorata, un po' dispettosa, un po' viziata, però mai la figura della dimensione che alla fine tutti conosciamo. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Di Evita Perón rimane il suo mito, al punto che nel 78, sulla sua vita, viene realizzato un musical di successo che raggiunge più di 3.000 repliche e successivamente viene trasformato in un film con la regia di Alan Parker, con l'interpretazione di Madonna nel ruolo di Evita. Ma del suo ruolo politico e sociale rimangono opinioni contrastanti e le toccanti parole che scrive nella sua autobiografia non allontanano i dubbi sulla sua vita e il suo pensiero. Ricordo nitidamente la tristezza provata nello scoprire che nel mondo c'erano i poveri e i ricchi. E la cosa strana è che non mi addolorava tanto l'esistenza dei poveri, quanto il fatto di sapere che, al tempo stesso, esistevano i ricchi. E allora ho capito che non deve essere molto difficile morire per una causa che si ama, o più semplicemente, morire per amore. Eva Perón era una donna con una forza inaudita, una grande personalità, che aveva una passione dentro di sé, una passione per amare e per odiare. Odiava appassionatamente. Non aveva la minima idea di cosa fosse la politica. Arriva alla politica perché è la compagna di Perón. A lei quello che interessava era la vita artistica. Diversi mesi dopo il 17 ottobre, lei si presenta per la prima volta in pubblico per leggere un discorso di Perón. Le donne aspettavano Perón, ma Perón non si presenta per dare l'opportunità a lei. È stata fischiata, non riuscì nemmeno a parlare. Lei il suo primo discorso lo pronunciò nel Teatro Cervantes. In quell'occasione abbiamo riempito il teatro. Da allora diventò una donna pubblica. Purtroppo tutto andò al contrario del previsto. Lei rinunciò il 31 agosto, una settimana dopo, come disse in quella celebre frase, agli onori ma non alla lotta. Fu una scelta dolorosa perché a lei sarebbe piaciuto molto esserlo, se lo meritava e la gente glielo chiedeva. Quando Eva Perón va in Spagna, dice a quello che la vestiva di copiare l'abito della Vergine di Luján, perché gli spagnoli sono molto religiosi. Come a dire che in questa esagerazione, un po' kitsch, uno vede subito qual era l'idea di fondo. Credo che misero in scena una trasposizione del cattolicesimo e che l'odio nei loro confronti ha a che vedere con questo, perché rappresentarono una specie di messa nera accanto alla Chiesa. Evita era antifemminista, dichiarata. C'è un intero capitolo nel suo libro, La ragione della mia vita, che è contro le femministe e contro il ruolo della donna che fa proprio quello che lei ha fatto. La sua è una concezione completamente conservatrice. La donna a casa, in cucina, con i figli. Tutto quello che lei non aveva mai fatto.